Fires, un programma di blues tradizionale contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera, buonasera a tutte le mie ascoltatrici, i miei ascoltatori. Un grande abbraccio da Bruno Pollacci. Siete all'ascolto di Blues Fires numero 65. E stasera partiamo subito con un gruppo che abbiamo avuto già il piacere di promuovere qui in Blues Fires. Si tratta di uno dei più interessanti gruppi blues europei, è un gruppo austriaco, che si chiama The Blues Mystery e che noi appunto abbiamo ascoltato attraverso altri progetti discografici. Stasera torna in Blues Fires questo gruppo con il nuovo CD intitolato Diesel Rock e da questo CD noi ci potremo ascoltare Grimaces on the Bad Mood. Buon ascolto quindi con The Blues Mystery. In the bad mood, could it bring you Bene, questa era la musica del gruppo austriaco The Blues Mystery, un gruppo interessante, sicuramente tra i più validi del panorama blues europeo, che si è già presentato più volte nel nostro programma e che ritorna con questo nuovo CD intitolato Diesel Rock, che evidenzia la particolare voce del leader del gruppo, il cantante che si esprime con grande potenza, con grande espressività, con grande grinta, e anche una bella complicità di gruppo. Hanno un sound piuttosto compatto, forte, caldo, nello stesso tempo in certi pezzi, negli slow, sono anche molto sensibili. Sono musicisti di grande esperienza, soprattutto molto legati tra loro, e fanno sentire sempre in ogni occasione questo bel legame in ogni progetto discografico. The Blues Mystery dall'Austria. Adesso ci andremo ad ascoltare un musicista che si presenta invece per la prima volta in Blues Fires, e si tratta di Rival Sons, Great Western Valkyrie è il titolo del CD pubblicato proprio l'anno scorso, nel 2014, molto interessante, molto bello, ricco veramente di pezzi realizzati con grande forza, con grande energia. È un CD dal quale noi ci potremo ascoltare Secret, Rival Sons. Buon ascolto. We'll be right back. Questo era il gruppo di Rival Sons, si tratta di uno dei più interessanti gruppi di blues rock del momento, veramente una grande potenza, una grande forza, un vocalist eccezionale con un'estensione incredibile, capacità espressiva, non solo potenza vocale ma anche capacità veramente di interpretazioni notevoli. Il CD è intitolato Great Western Valkyrie, pubblicato proprio l'anno scorso nel 2014, e il pezzo che ho scelto per voi era intitolato Secret, forse uno dei pezzi che mette in maggiore evidenza le potenzialità di questa band, grandi musicisti ma soprattutto impressionante questo vocalist dalla potenza estrema. Adesso andiamo avanti con un altro grande professionista, si tratta di Mark Selby. Mark Selby ha realizzato un CD molto bello intitolato Blue Highway, e da questo CD ho selezionato per voi questo pezzo intitolato Hell's Hip Pocket. Buon ascolto quindi con Mark Selby. E ci siamo ascoltati anche la musica di Mark Selby, questo valido cantante che dal CD Blue Highway ci ha fatto ascoltare Healthy Pocket. Si tratta di un cantante con un gran bel timbro, caldo, pastoso, come avete sentito, con amore verso l'R&B e linguaggio che fonde con il blues in modo evidente, con risultati eccellenti. Un cantante che sicuramente farà parlare di sé molto più di quello che non sta facendo fino adesso, perché è sicuramente gradevole anche per un pubblico più ampio, pur rimanendo all'interno di un linguaggio blues e R&B. Il prossimo gruppo è un gruppo che viene dagli Stati Uniti, che si chiama Grizzly, porta il nome di questo straordinario animale, dell'orso più grande, uno dei più mastodontici della terra, veramente bellissimo il Grizzly. E stasera questo gruppo ci farà ascoltare un pezzo tratto dal CD At The Station. Il pezzo che ho selezionato per voi è intitolato Evil Hearted Woman. Buon ascolto quindi con il gruppo di Grizzly. go to the barber, 'cause I don't have a dime for a shave. I can't go to the barber, no, no, 'cause I don't have a dime for a shave. But you just sit at home and holler, woman, I swear you're gonna put me right down in a two-worldly grave. But I love you anyway. Niente male, questi Grizzly è un gruppo americano veramente molto valido, riescono a fare sia molto bene con gli slow che con i fast, riescono a dare sempre molta forza espressiva, molta carica ad ogni pezzo, un'interpretazione sempre molto sentita, molto profonda, come nel caso di questo pezzo che ci siamo ascoltati, tratto dal CD At The Station ed intitolato Evil Hearted Woman. Un gruppo che è poco conosciuto qui da noi, che quando l'ho scoperto ho avuto veramente la sensazione di aver trovato un gruppo completo, interessante. Avremo occasione poi di ascoltare altri pezzi per apprezzare la compiutezza di questa musicale, di questo gruppo. Dopo Grizzly è il momento di Ronnie Earl and the Broadcasters, e noi ci potremo ascoltare l'ultimo loro CD pubblicato nel 2014, intitolato Good News, e il pezzo che ho selezionato per voi intitolato Six String Blessing. Buon ascolto quindi con Ronnie Earl and the Broadcasters. Strings give rise to deepest pain. May each note be gentle, gentle and true. Sometimes fiery, always blue. Take me, touch you. Things begin. Guide this heart from silence to song. Songs arising, notes profound. May our stories shape this song and find a home where they belong. Thank you. from silence to sound. Song arising, notes profound. May our story shape this song and find a home where they belong. Use me, move you, music of life. Heal me, heal you, strings of squillante prestazione del gruppo Ronnie Earl and the Broadcasters, bella voce la vocalist, una bella prestazione con dei begli assoli morbidi e nello stesso tempo intensi, un'interpretazione sicuramente interessante. Il CD è stato pubblicato proprio l'anno passato, intitolato Good News, e noi ci siamo ascoltati Six String Blessing, Ronnie Earl and the Broadcasters. Adesso ci ascolteremo un gruppo italiano, fanno tra il soul e il blues, si chiamano Soul Stirring Sound, e stasera noi ci potremo ascoltare You Kept My Everything, tratto dal CD Throwing Out the Blues, pubblicato nel 2012. Buon ascolto quindi con Soul Stirring Sound. You ask me for a lot of things, and often not denied, but I have stolen from myself more than I should die. Brought you into my whole life, what was mine was yours. For what I just gave, but foolish. Il sound, quello che ci è stato proposto dalla Soul Stirring Soul Band. Si tratta di una band italiana con un'ottima cantante, Fulvia Gasparini, che ci ha fatto ascoltare questa sua bella interpretazione di You Kept My Everything, tratto dal CD Throwing Out the Blues, pubblicato nel 2012. Una tra le band più interessanti del momento, che fonde il soul con il blues e che riesce a trovare degli equilibri molto interessanti. A volte l'ago della bilancia si sposta più dalla parte del soul, altre volte si riequilibra con il blues, ma al di là di queste piccolezze di linguaggio è una band molto ben assortita, che offre delle sonorità interessanti che meritano la massima attenzione. E adesso, dopo la Soul Stirring Sound Band, è il momento di andare avanti con Rat Dog, una band che nel 2002 ebbe l'occasione di esibirsi al festival, uno dei festival più importanti del blues, sicuramente in Italia, che è il Pistoia Blues. e in quell'occasione venne fatta una registrazione live, che include anche vari rumori di fondo. Comunque è stato pubblicato questo CD con addirittura, io ascoltando tutto il CD, in alcuni pezzi ho ascoltato, sono presenti anche delle imprecazioni, delle parolacce di personale che lavora lì, quindi personale che doveva badare all'ordine, che doveva anche badare a tutta una serie di cose, e queste voci, queste imprecazioni e queste parolacce sono entrate anche in alcune delle registrazioni. Quindi se sentite qualche cosettina che non è proprio un urletto di fan, ma è un urlo con qualche parolaccia, sappiate che è il personale del festival che non sapeva evidentemente che le proprie esternazioni sarebbero andate nella registrazione. Red Dog Live at Pistoia Blues 2002, il pezzo che ho scelto per voi è Minglewood Blues. Buon ascolto. We'll be right back. Questi erano i Rat Dog, un gruppo che si presentò a Pistoia Blues nel 2002. Di questa performance venne fatta una registrazione live, una pubblicazione discografica che appunto si chiama Live at Pistoia Blues 2002 Rat Dog. Il pezzo che ci siamo ascoltati era una composizione intitolata Minglewood Blues, una composizione originale del gruppo. I suoni, le atmosfere sono coinvolgenti, c'è tutta la vitalità del live, anche il suono sporco del live, come vi ho detto prima, c'è un po' tutto, però a volte le atmosfere dei live sono comunque coinvolgenti, anche proprio per questa sensazione che danno di partecipazione, di essere lì, di vivere il momento, e quindi a volte anche i suoni sporchi dei live comunicano delle energie piacevoli e interessanti. Andiamo avanti adesso con un altro artista italiano. Prima vi abbiamo presentato Soul Stirring Sound e adesso Davide Lipari, che stasera potremo ascoltare nel suo ritorno a Blues Fires in The Same Man. Buon ascolto con Davide Lipari. Questa era l'atmosfera cruda rocciosa di Davide Lipari, che ci ha offerto questa sua interpretazione di The Same Man, tratta da una compilation di pezzi interpretati dal bluesman italiano in questi ultimi anni. E siamo arrivati all'ultimo pezzo della serata. Ci ascolteremo, come spesso accade, un pezzo tratto dalla tradizione. Lowell Fulson che dal progetto discografico Classic Cats 1946-1953, disco A, ci farà ascoltare The Train Is Leaving. Buon ascolto con Lowell Fulson. Thank you. Good evening, neighbor. Don't the sun look good going down? Good evening, neighbor. Don't the sun look good going down? Well, it would look much better if my baby was in town. The train is leaving, and my baby, she's on board. The train is leaving, my baby, she's on board. I know she's going this time, and she won't be back no more. I can hear the train whistle, I can hear that engine moan. Lord, won't you hear my prayer? I can't stand to be all alone. Well, I'm going to San Francisco. Left Chicago late last night. Chicago late last night. Talk long distance with my baby, and everything gonna be alright. Bene, questo era Lowell Folsom, ce lo siamo ascoltati in The Train Is Leaving, tratto dal CD Classic Cuts 1946-1953, un ritorno alla grande tradizione che sembra quasi avere una funzione di ripulitrice interiore, ci rassicura ritornare, ci accoglie, insomma, no? Questa grande tradizione come un grande abbraccio per finire in bellezza. La puntata era la numero 65, Blues Fires tornerà chiaramente, se lo vorrete, martedì prossimo alla solita ora. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Blues Fires.